Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, è in corso a Torino la 26esima edizione del Salone del Libro, un appuntamento certo molto importante per tutti gli appassionati del libro e per tutte le professioni che girano intorno al libro, dagli editori agli autori naturalmente, e che si potranno incontrare con gli appassionati che in questi giorni accorrono a questo appuntamento, che è diventato ormai un appuntamento molto importante anche per l'occasione appunto di incontrare tanti autori in tantissimi appuntamenti che sono organizzati nelle giornate del Salone, che ricordo si chiude domani alle ore 22. Se possiamo compiacerci del fatto che in 25 anni di vita si sono triplicati i visitatori del Salone di Torino e più che raddoppiati gli espositori, non possiamo non tornare a riflettere su una debolezza di fondo della nostra realtà culturale. In Italia si legge troppo poco. Sono meno della metà gli italiani che leggono almeno un libro l'anno al di fuori dei loro doveri di studio e di lavoro, e questa, come sappiamo, è una media nazionale. La quota dei lettori scende ancora di più nelle regioni meridionali. Voglio sperare che la dovuta attenzione mediatica sul Salone di Torino costituisca uno stimolo per applicarci seriamente a contrastare un fenomeno tanto negativo. Lo è di per sé negativo, perché non leggere significa privarsi di una delle principali fonti di piacere e di sviluppo personale. Lo è pure perché costituisce uno svantaggio oggettivo nella vita individuale e collettiva, anche sotto il profilo economico. Quest'anno il Salone è stato aperto con un radiomessaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha suscitato anche una certa emozione. Allora parliamo di questi temi con uno dei protagonisti di questo settore, cioè il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Gian Arturo Ferrari. Buongiorno a Gian Arturo Ferrari. Buongiorno. Gian Arturo Ferrari, che clima ha trovato giovedì al Salone del Libro, quando ha partecipato anche lei all'inaugurazione di questo appuntamento? Ma un clima contrastante, nel senso che il clima meteorologico era pessimo. Pioveva, diluviava e devo dire che c'era anche poca gente sotto quelle cataratte. E viceversa il clima interno, per così dire, era molto buono, e in particolare è stato molto caloroso e anche appassionato l'intervento del nuovo ministro dei beni e delle attività culturali, Massimo Brai. Ha fatto qualche annuncio sul tema del libro importante che voi avete colto? No, non ha fatto nessun annuncio specifico, e d'altra parte credo che fosse impossibile farlo, però ha detto che si impegnerà fino in fondo parlando dei libri, devo dire per la prima volta da parte di un ministro, parlando dei libri come di chi nei libri ci è vissuto, o nei libri ha passato la maggior parte della propria vita professionale e anche ha riposto nei libri la maggior parte dei propri affetti e della propria passione. Ecco, una grande passione dimostrato nel suo intervento registrato anche il Presidente della Repubblica, abbiamo sentito qualche parola di quello che ha detto. Ha insistito molto il Presidente Napolitano su questa realtà italiana, che in Italia si legge poco. Ecco, allora affrontiamo questo tema. Come mai nel nostro paese si continua a leggere così poco? Ma per una ragione molto semplice, cioè che noi siamo un paese che dall'inizio dell'età moderna in avanti non ha seguito il movimento delle società più avanzate e più civili, che portava per un grande allargamento della cultura. In Italia la cultura è rimasta elitaria e ristretta. Al momento della unità nazionale, 150 anni fa, gli italiani erano 22 milioni e su 22 milioni 17 erano analfabeti. Allora, queste sono eredità storiche che non è che si cancellano in un volgere neanche di un secolo, voglio dire, nel senso che oggi per fortuna l'analfabetismo è completamente sanato. Ricordiamoci che in tempi molto più vicini a noi, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli analfabeti erano ancora il 30% della popolazione adulta italiana, però certamente il processo è lento, e poi dall'unità in avanti, e in particolare anche dal dopoguerra in avanti, la politica italiana non ha mai sentito questo come un problema essenziale per la dignità del paese e neanche non l'ha mai visto come un fattore, un elemento fondamentale di sviluppo economico e di forza reale. E queste sono le conseguenze. È un paradosso della situazione italiana, che fra l'altro viene messo in luce anche dal rapporto sulla promozione della lettura in Italia che ha curato l'associazione Forum del Libro, è il fatto che da noi appunto si legge poco, ma si scrive e si pubblica moltissimo, anche se un po' meno di prima. Non è paradossale. Le percentuali di libri nuovi, novità pubblicate in un anno in Italia sono abbastanza in linea con la media europea. Certo, sono in linea con la media europea, ma non è in linea con la media europea il tasso di lettura, lei potrebbe dire. Però, insomma, in sostanza il problema non è quello del si scrive troppo, si produce troppo, anche perché, per grazia di Dio, l'editoria è un'industria libera, quindi gli editori pubblicano a proprio rischio e a proprie spese, quindi se poi non funzionano ne pagano le conseguenze direttamente e dunque chiudono. Quindi da questo punto di vista no, io non penso che i problemi dell'Italia siano lì. Il problema dell'Italia è quello che non c'è mai stata una volontà politica, come si usa dire, per considerare la cultura un fattore produttivo essenziale. Ecco, questa volontà politica nell'ambito del libro, come si potrebbe manifestare? Lei è stato per tanti anni un editore importante del nostro paese, ha diretto la Mondadori, quindi conosce questo settore meglio di chiunque altro. Che cosa potrebbe fare la politica in un settore, appunto, che come lei ricordava è poi un settore privato? Vede, il libro è una cosa ambigua. Nel senso che per un verso è un prodotto commerciale, un bene commerciale che quindi viene commerciato a un prezzo, venduto, comprato e così via. Per un altro verso è anche un'altra cosa, cioè ha un'altra valenza. Allo stesso modo è in larga misura appartenente, per così dire, all'ambito dell'industria privata, ma ha anche un interesse pubblico, nel senso che è interesse pubblico che appunto gli italiani leggano, che siano coltivati e tutto il resto. Quindi quello che lo Stato potrebbe fare non è una cosa sola, sono varissime cose, da quello di promuovere una politica della lettura efficace nei confronti dei bambini molto piccoli, in modo, perché ormai si sa che si diventa lettori di libri nei primissimi anni di vita, a poi favorire la lettura pubblica e favorire ogni forma di lettura all'interno del paese. Ad esempio negli ultimi anni sono stati tagliati in maniera spaventosa non i finanziamenti ma le semplici dotazioni alle biblioteche per comprare libri. Certo, questo non favorisce lo sviluppo della lettura, no? Non si risolve con un colpo di bacchetta magica e con un solo provvedimento, occorre elaborare un piano complessivo con interventi a vari livelli e in vario modo che ottengano poi questo risultato. Il suo centro, il Centro per il Libro e la Lettura, che contributo può dare da questo punto di vista? Ma noi abbiamo fatto una cosa fondamentale, abbiamo avviato un progetto sperimentale che si chiama In Vitro e che è appunto un progetto, In Vitro appunto perché è sperimentale, per vedere di avvicinare quali sono gli effetti di avvicinamento alla lettura dei bambini piccolissimi. E lo facciamo in 6 province, per così dire, ex province, non so cosa saranno, italiane, 2 al nord, 2 al centro e 2 al sud. È una piccola, relativamente parlando, sperimentazione che costa circa 1 milione di euro l'anno per 2 anni e noi speriamo intanto di farla e di ottenere dei risultati positivi e poi di sperare che si possa allargare a tutto il territorio nazionale. Se l'Italia volesse fare una vera politica di promozione della lettura, una politica cioè che cambiasse la fisionomia della lettura nel nostro paese, costerebbe 20 milioni di euro l'anno e occorrerebbe farla per una ventina d'anni. Quindi questo è l'investimento, le dimensioni dell'investimento nel trasformare gli italiani in un popolo coltivato. Del resto ricordo io, così evito lei l'imbarazzo, che in molti altri paesi iniziative e strutture simili al Centro per il Libro e la Lettura godono di finanziamenti pubblici particolarmente significativi. Sì, perché pensano e ritengono che sono questi i settori in cui occorre investire. Dell'altro giorno è l'idea del governo Hollande in Francia di istituire una tassa per finanziare la cultura. Ora, istituire una tassa non è mai una bella cosa, naturalmente, però una tassa in questo caso sui telefonini. Però l'idea è che la cultura è qualcosa su cui bisogna investire e su cui tutti devono investire, a patto che tutti possano poi controllare cosa viene fatto del loro investimento, è secondo me una buona e giusta idea. E le forme distributive quanto contano nella tendenza a leggere in un paese? Oggi mi pare si sta diffondendo molto la vendita via internet, le librerie soffrono, anche le catene, i supermercati mi pare. Già, quelli sono delle evoluzioni della realtà che non dipendono dalle politiche, cioè io penso che certamente debbano esserci delle politiche di tutela, di promozione delle librerie e così via, ma è chiaro che se la tendenza del pubblico si orienterà in futuro prevalentemente per gli acquisti dai retailer online, c'è poco da fare, così sarà, insomma. Dall'altro canto il retail online offre dei vantaggi innegabili, nel senso che i libri vengono recapitati a casa, eccetera, eccetera. O anche dei grandi svantaggi, bisognerebbe che i librai puntassero più sui loro vantaggi e sugli svantaggi del retail online, naturalmente. Però, insomma, queste sono questioni interne, come dire, al business dei libri, su cui, a mio modo di vedere, lo Stato non dovrebbe intervenire più che tanto. Mentre invece quello che è assolutamente il suo compito prioritario è quello di mettere tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalle loro origini, dalla loro ricchezza, dalla loro condizione sociale, in condizioni di leggere e di usufruire di tutto questo patrimonio. In tanti anni di professione in questo settore, lei ha visto un'evoluzione? Può riassumere, diciamo, un cambiamento che c'è stato nel nostro paese in questi anni? Ma guardi, il cambiamento vero è avvenuto prima che io cominciassi a occuparmi di editoria. Il cambiamento vero è stata la media unica, che è stata introdotta, come lei ricorderà, all'inizio degli anni 60. La media unica è stato l'ultimo vero grande cambiamento strutturale del nostro paese nell'ambito della cultura, perché rendendo obbligatoria la media a tutti i cittadini ha di fatto ampliato moltissimo il bacino dei lettori. In realtà l'editoria cosiddetta economica, paperback, tascabili, qualsiasi sia la denominazione che si vuole usare, si è fondata sul fatto che era nato questo nuovo pubblico che era figlio della media unica. Bene, grazie a Gian Arturo Ferrari, presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Buona domenica. Arrivederci, grazie. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo dunque del Salone del Libro di Torino. Quest'anno c'è un tema che è quello principale intorno al quale ruota il Salone, che è il tema della creatività. E poi ricordo che il paese ospite è il Cile. Allora parliamo di creatività con uno degli ospiti del Salone del Libro, che è Ermanno Olmi, il grande regista, di cui Rizzoli ha appena pubblicato una sorta di biografia che si intitola L'Apocalisse e un lieto fine, storia della mia vita e del nostro futuro, 264 pagine, 18 euro. Qui troviamo un racconto della vita appunto di Olmi attraverso gli altri, come scrive lui stesso, e cioè le persone, scrive, a cui ho voluto bene e ancora ne voglio, quelle a cui sono grato e che ricordo con gioia. Trascuro invece chi mi ha ingannato o persino derubato. E la testimonianza è davvero toccante e affascinante anche sul mondo del regista, sulle sue convinzioni, sul suo atteggiamento nei confronti della vita, riassunte bene in queste righe che vi propongo. Ricordo un convegno a cui partecipai parecchi anni fa. Io, che non avevo titoli scolastici, mi sentivo in soggezione di fronte a certi intellettuali così spigliati e garruli, che credevano davvero di essere le menti che illuminano il cammino degli umili. Nella pausa caffè, ai convegni non può mancare la pausa caffè, confessai che avrei voluto fare un film sulla civiltà contadina. Ahimè, fui subito zittito da un tizio che mi gelò con queste precise parole. Il mondo contadino non è mai stato una civiltà. Giuro che disse esattamente così. Questa specie di inurbati, che come tutti erano loro stessi figli di quel mondo rurale che poi rinnegavano, giudicavano i contadini sprovveduti campagnoli e il loro lavoro il compito degli infimi. Cosa dicono oggi quei luminari che fino a ieri consideravano le masse contadine una non civiltà rispetto a quella industriale, tecnologica e informatica? Come mai questo nostro progresso non ci ha traghettato in un mondo più sicuro e giusto? Questo non è più il tempo delle regge e dei sontuosi palazzi per magnificare la potenza di principi e re, né di grandiose cattedrali per ogni sorta di idolatria. Da parte mia, sono fiducioso che non lo sono mai stato. Non sarà facile e ci vorranno tempo, volontà, sacrifici. Ma non si torna indietro. Da dove cominciare? Restiamo dunque in tema di creatività con un libro che parla del tema e ha un titolo anche particolarmente attuale, Il falò delle novità, la creatività al tempo dei cellulari intelligenti. L'autore è Stefano Bartezzaghi, il noto enigmista ed esperto di temi linguistici, libro pubblicato da UTET, 238 pagine, 12 euro. Creatività è un tema caro all'autore, non fosse altro perché per la diffidenza che suscita questa parola in Bartezzaghi, soprattutto diffidenza derivante dal la mitizzazione che di questo termine ha avuto luogo soprattutto negli ultimi tempi. Bartezzaghi su questo ha già scritto un libro, Contro la mitologia della creatività, ora ci torna dopo un interessante esperimento condotto l'anno scorso, quello di raccogliere 200 definizioni della creatività attraverso Twitter. Ciascuna di queste definizioni naturalmente è parziale, ma insieme, spiega l'autore, formano un bel quadro della mitologia della creatività. Poi Bartezzaghi ha discusso di questo con gli studenti dell'Università Ulm di Milano e ha formato, per così dire, questo libro. Perché si parla di mitologia? Perché, risponde l'autore, il termine creatività è ormai strettamente connessa con l'informazione. E allora qui troviamo le varie definizioni date della creatività raggruppate in varie categorie, che sono per la precisione 18. Emergono da queste definizioni degli aspetti interessanti, per esempio, ve ne leggo alcune: la creatività ha a che fare con la vita in quanto implica un cambiamento, oppure la creatività ha a che fare con il risveglio, sia il risveglio in senso metaforico come un ritorno a uno stato di vitalità che si era assopita, sia l'ordinario risveglio dal sonno. Solo la creatività può riscattare la grigia quotidianità. Ancora, la creatività ha a che fare con il gioco, oppure la creatività si pone nel punto di contatto tra fantasia e realtà e richiede sia realismo sia capacità fantastica. La creatività si oppone alla ripetizione, la creatività può essere distruttiva, eccetera, eccetera. E sul Cile, che è appunto il paese ospite del Salone del Libro di quest'anno, vi segnalo l'ultimo titolo pubblicato in Italia di uno scrittore che è ormai di culto anche in Italia, cioè Roberto Bolaño. Il libro si intitola Un romanzetto lumpen, è pubblicato da Adelphi, che sta curando la riedizione di tutte le opere dello scrittore cileno. 120 pagine, 14 euro. Tra l'altro in giugno sarà nelle sale un film tratto da questo libro che si intitola Il futuro. Questo libro è tradotto da Ilide Carmignani e qua troviamo la storia di due fratelli sfortunati rimasti presto orfani che conducono una vita abbastanza inutile davanti alla televisione fino a un incontro sorprendente con un culturista cieco, ex star di film in costume. Se questo libro si svolge a Roma, è ambientato in Cile un altro libro recentemente pubblicato di Bolaño in Italia, cioè Stella distante, sempre pubblicato da Adelphi, 148 pagine, 16 euro, tradotto da Barbara Bertoni, dove assistiamo a un altro incontro fatale, quello con Carlos Vider, anticipato dalle righe che vi propongo qui. In quei giorni, quando affondavano le ultime scialuppe di salvataggio dell'Unità Popolare, venni arrestato. Le circostanze della mia detenzione sono banali, se non grottesche, ma il fatto di trovarmi lì e non per strada, o in un caffè, o chiuso in camera mia buttato sul letto, era questa l'ipotesi più probabile, mi permise di assistere alla prima azione poetica di Carlos Vider, anche se allora non sapevo chi fosse Carlos Vider né cosa fosse successo alle sorelle Garmendia. Accadde un pomeriggio all'imbrunire. Vider amava i crepuscoli, mentre insieme ad altri detenuti, una sessantina di persone, ammazzavamo la noia nel centro La Peña, un posto di passaggio alla periferia di Concepción, già nei pressi di Talcahuano, giocando a scacchi in cortile o semplicemente chiacchierando. Il cielo, mezz'ora prima assolutamente limpido, cominciava a portare alcuni lembi di nuvole verso est, nubi come spilli e sigarette, bianche e nere all'inizio. Quando sorvolavano la costa, poi diventavano rosa, spostandosi sulla città. Infine, quando si incanalavano su per il fiume, erano di un vermiglio brillante. In quel momento, non so perché, avevo la sensazione di essere l'unico detenuto a guardare il cielo. La ragione era forse che avevo 19 anni. E di recente Adelphi ha pubblicato, sempre di Bolaño, una serie di racconti, Chiamate telefoniche, tradotte da Barbara Bertoni, 272 pagine, 14 euro. Infine vi segnalo un libro che è proprio ambientato nel Salone di Torino, di cui anzi troviamo nelle prime pagine anche la pianta. Il libro si intitola Perduti tra le pagine, l'autrice è Margherita Oggero, un'ex insegnante e scrittrice attuale torinese. Il libro è pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 10 euro. Abbiamo una babysitter rumena ansiosa di conoscere il suo autore di culto che perde il proprio ragazzino, Leone, una classe in visita al salone che perde un allievo, Orso, i due si incontrano, a loro si aggrega una ragazzina, i tre varcheranno una sorta di porta fatata, immergendosi nella lettura e nel gusto della lettura in compagnia, e intanto intorno a loro naturalmente ribolle tutto il mondo che li cerca, le famiglie agitatissime e famiglie che in questa agitazione naturalmente mettono a nudo tutta la propria debolezza. E a questo punto... Il confettino. A proposito di lettura di bimbi, vi segnalo di Leo Lionni L'albero alfabeto, tradotto da Cristina Brambilla per Baba Libri, 12 euro. Questo è un albero sulle cui foglie fioriscono le parole e le lettere che le compongono. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.